dono marresna re re dala ga dibi riski mi le mo ja ba re ga solo il bibiri mo quanti wa go be di mara wa yu ja ba zo mo quanti wa go be di mara wa yu nan di zo.